Lezione a pancia in giù, proni, che ci serve soprattutto per la colonna vertebrale e ancora una volta per la parte alta toracica e posteriore tra le scapole, le spalle e il collo. Cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo partendo dai piedi e salendo fino alla testa, sempre solo osservando come state sdraiati, non modificando il vostro modo di stare sdraiati. Quindi percepite come appoggiate a terra le differenze tra una parte e l'altra senza modificare. E quindi salite dai talloni, osservate come appoggiano i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Come sono messe le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Come è messo il collo e la testa. Osservate poi come tenete la bocca, e come sono messe le spalle e le braccia, quale spalla è più in avanti verso il soffitto, quale spalla cade più indietro come per appoggiarsi meglio per terra. E di conseguenza come sono messe le due braccia, nel modo nel quale appoggiano come ti polsi, mani, dita, e se un braccio più in dentro, vicino al corpo, uno più in fuori, come è messa la mano, palmo in giù, palmo in su, di traverso, e può essere che l'appoggio delle mani sia diverso l'una rispetto all'altra. E passate ad osservare il respiro. E se abbandonate il peso del corpo per terra. O se vi rendete conto che ci sono delle parti che se anche vorreste abbandonare, di fatto non riuscite a farlo. Ok, adesso lentamente rotolate a pancia in giù, proni, e girate la testa verso destra. Vi consiglio, perlomeno dalla pancia in giù fino ai piedi, di appoggiarvi per terra, non sul materassino, perché se appoggiate sul materassino farete molta fatica a piegare le gambe, perché il materassino provoca attrito. Quindi se siete su parquet, linoleum, o sul pavimento non freddo, meglio se state dalla pancia in giù appoggiate a terra. E inoltre, se avete bisogno, man mano che piegheremo la gamba, e se vi dà fastidio il ginocchio, ho messo vicino, no, dopo no. Se vi dà fastidio il ginocchio, mettete, della gamba che piegate, appoggiate, mettete un cuscinetto o qualcosa sotto il ginocchio in modo che il ginocchio non dia fastidio. Bene, siete a pancia in giù, con la testa girata a destra, e cominciate con l'osservare come tenete le gambe e come appoggiate i piedi. Provate a mettere i piedi in varie posizioni. Ciascuno di noi ha un suo modo che dipende dalla sua postura, e c'è chi quando sta pancia in giù ha le punte dei piedi in fuori e i talloni in dentro, c'è chi ha i talloni in fuori e le punte in dentro, e c'è chi invece appoggia quasi il dorso del piede tenendo il piede quasi dritto. Provate tutte e tre le posizioni, scoprite qual è quella che vi piace di più, che è più comoda, che non sempre corrisponde a quella che vi viene naturale di primo acchito. Per dire, quando siete messi a pancia in giù eravate in una posizione, ma adesso che vi dico di provarle tutte e tre, può essere che la cambiate. E vi accorgerete che c'è una posizione nella quale l'articolazione delle anche e l'appoggio del tallone è molto più naturale, e in teoria in quella posizione io potrei salire in piedi sulla caviglia, la vostra caviglia, la vostra anca, e non succederebbe niente. E invece ci sono le altre due posizioni nelle quali se io salissi sul tallone l'anca salterebbe fuori, perché non è naturale. Ok, adesso appoggiate un attimo la fronte per terra, e se potete togliete i cuscini dalla testa, la testa sta appoggiata per terra non sul cuscino, e mettete i gomiti sollevati come per fare i piegamenti sulle braccia. E da quella posizione, gomiti sollevati, mani appoggiate a terra, e da quella posizione immaginate di seguire sul pavimento, e che poi sale fin dove arrivate a vedere sulla parete davanti a voi, di seguire con gli occhi e con il resto del corpo una formichina che cammina. Quindi pian piano seguite con gli occhi e il resto del corpo una formichina che dai vostri occhi cammina sul pavimento davanti a voi e poi comincia a salire lungo la parete davanti a voi. Quindi vedete fin dove riuscite a guardare. Non è che gli occhi e il corpo stanno fermi, ma gli occhi seguono e man mano comincia a muoversi anche la testa, quindi arriverete a muovere la testa e a sollevare tutto quello del quale avete bisogno di sollevare per seguire questa formichina senza sforzo. Poi alla fine rifaremo questo movimento e vedremo com'è alla fine, che differenze ci sono, soprattutto nel modo di pensarlo e di farlo. E man mano che lo fate, osservate se state respirando e come muovete testa, collo, schiena, braccia, eccetera. Senza sforzarvi, evitando di contrarre troppo i vari muscoli del corpo, per esempio i glutei, non è necessario contrarli. Certo, quando ci si muove tutti i muscoli si contraggono un po', però un conto è un po' il minimo indispensabile, un conto è irrigidirli più di quello che serve. Sempre lavorare con l'idea di massima efficienza e minimo sforzo. Più consapevolezza, dice Feldenkrais, di come si lavora, piuttosto che sforzo muscolare. Detto in altre parole, muoversi con intelligenza. Ok, adesso vi fermate, ruotate la testa a destra, Appoggiate la guancia sinistra a terra, la testa è appoggiata per terra, non sul cuscino. Via i cuscini quando si ha pancia in giù. E adesso, tenendo i gomiti sollevati e appoggiando le mani, cominciate piano piano a piegare la gamba destra, strisciandola per terra e appoggiando il bordo interno del piede destro sul pavimento. Se potete tenere i gomiti sollevati, meglio. Se non ce la fate all'inizio, appoggiateli pure. E osservate, come abbiamo fatto in altre lezioni, se il vostro piegare la gamba è un muovere il ginocchio in fuori, come fanno i ballerini per fare il lavoro di apertura linguine, oppure se la vostra idea è di muovere l'anca destra indietro verso sinistra e quindi di sollevare il bacino che da orizzontale parallelo a terra diventa perpendicolare. Lo diciamo in un altro modo. Osservate se il ginocchio destro, quando lo piegate, va molto in fuori o se invece, da gamba allungata, tirate il ginocchio su quasi dritto verso il bacino ed è il bacino che si muove indietro. Lo diciamo ancora in un altro modo. Osservate se quando piegate la gamba destra, il torace sta quasi appoggiato a terra come se foste a pancia in giù o si ruota come fa il bacino, come per arrivare sul fianco sinistro. Quindi cominciate con osservare come lo fate voi, dopodiché vi chiedo io il modo nel quale desidererei vederlo fare. Primo lavoro è rendersi conto delle proprie abitudini, del primo moto che vi viene, quindi di quello che vi viene immediatamente da fare. Dopodiché si possono, una volta che ci si rende conto di come ci si muove, si possono inserire col movimento volontario altri modi di muoversi. E adesso vi chiedo di piegare sì la gamba appoggiando il bordo interno del piede, però muovere il ginocchio non in fuori ma dritto verso il bacino. Quindi il bacino va bene indietro e lo stesso il torace. Quindi, detto in altre parole, l'anca destra e il bacino diventano come perpendicolari a terra. Quindi è come se la parte destra fosse verso il soffitto e appoggiaste solo sul fianco sinistro del bacino. Quando avete bisogno di riposarvi, anche se io continuo, ciascuno di voi prenda il proprio tempo per riposarsi in qualsiasi posizione, pancia in giù, fianco, pancia in su. Bene, ora proseguiamo e mentre piegate la gamba destra, muovete la testa come per guardare sotto il buco formato dal braccio destro. Vi ricordo che le mani e le braccia sono messe come per fare i piegamenti sulle braccia. Adesso, oltre a piegare la gamba come avete fatto fino adesso, la testa va in direzione del buco formato dal braccio destro. E non solo, va oltre, la testa va verso il ginocchio destro e il ginocchio destro va verso la fronte. Quindi vi accorgerete, se non avete capito, non avete sentito o fatto fino adesso, che per riuscire a fare questo è quasi necessario mettersi sul fianco sinistro, quindi è necessario che l'anca destra vada bene indietro, il ginocchio non vada tanto in fuori quanto in su, verso il torace. Testa, ginocchio, fronte, ginocchio l'uno verso l'altro, il che non vuol dire che si toccano, è solo in direzione di l'orientamento, la direzione. E osservate se respirate. E vi riposate un attimo nella posizione che volete. È uscita la traduzione italiana del libro di Norman Doidge, non mi ricordo più il titolo, questo neuroscienziato, che racconta, tipo con esempi, tipo libri di Oliver Sacks, e un capitolo è completamente dedicato al Feldenkrais. Anche se hanno sbagliato nella traduzione e hanno messo che era un medico e invece era un fisico. Solo che hanno tradotto physicist come se fosse physician. Bene, di nuovo pancia in giù, testa a destra, mani e braccia appoggiate come per fare il piegamento sulle braccia e lentamente, no, gomiti su e mani come per fare i piegamenti sulle braccia e adesso lentamente, movimento lento, piegate la gamba sinistra. Sinistra. L'altra gamba rispetto a prima. Quindi molto lentamente e movimento molto piccolo, giusto? Molto lentamente, perché la testa è a destra e si piega la gamba sinistra, quindi è un po' faticoso. Osservate se respirate, in che punto della colonna vertebrale sentite che le due torsioni si incontrano. Ok, e adesso piegate una volta una gamba e una volta l'altra. e quando piegate la gamba destra andate con la testa verso il ginocchio destro e il ginocchio verso la testa. Ok, e vi riposate, vi girate supini a pancia in su. Osservate come l'appoggio sul pavimento state respirando, come abbandonate il peso a terra, che differenza c'è, se c'è, tra il lato destro e il lato sinistro. Poi, scusate, prima ruotate un po' la testa destra a sinistra con un movimento molto piccolo e molto lento. Ascoltando da che parte ruota con più facilità. Ok, lasciate andare e arrotolate proni a pancia in giù. La testa è sempre girata a destra. Osservate come tenete i piedi, i gomiti sono sollevati e le mani in appoggio di lato, come se steste facendo i piegamenti sulle braccia. Benissimo, questa volta piegate come prima la gamba destra strisciando il bordo interno del piede, ma la testa guarda al di sopra della spalla destra. Quindi piegate la gamba destra e sollevate proprio, staccate la testa in modo da guardare al di sopra della spalla. E poi tornate. E osservate come lo fate. E osservate se vi state autolimitando e fate tanta fatica che potreste risparmiarvi. Vedete se muovete tutto quello che potete muovere per aiutarvi, premendo con le mani, a guardare al di sopra, al di dietro della spalla destra quando piegate. Alzandola, sì. L'alzate e non solo, potete fare anche altro. Quindi guardate se oltre a piegare la gamba, sollevare la testa, guardare sopra la spalla, potete fare anche altri movimenti, muovere altre parti che vi facilitano il movimento. Non so se avete presente i bambini piccoli come si mettono e cosa fanno quando sono pancia in giù e cominciano a lavorare con gli estensori. Cosa fanno con le braccia i bambini? Non lo sapete, non vi ricordate. Passato un po' di tempo. Quando sollevano la testa, quasi stendono le braccia. Quindi, se volete, quando piegate la gamba destra, appoggiando il bordo interno del piede destro e sollevate la testa per guardare sopra e dietro la spalla destra, spingendo con le mani, potete arrivare quasi a braccia tese. No, no. Braccia tese, su con la testa, spingendo con le mani. Però la gamba destra piegata. Guardando dietro la spalla destra. E osservando cosa fa la schiena. Osservando se respirate e osservando il movimento delle scapole e della colonna vertebrale tra le scapole. Sembra di no, ma quella parte del collo sono le più coinvolte. E riposate un po'. Nella posizione che preferite. Bene, adesso alternate sempre mani appoggiate a terra, gomiti sollevati, come per fare i piegamenti sulle braccia, testa girata a destra, guancia a sinistra appoggiata a terra e una volta piegate la gamba a destra e avvicinate la testa guardando sotto il braccio, sotto il braccio destro, quindi piegate la gamba destra. Infilate la testa nel buco formato dal braccio destro e muovete la fronte verso il ginocchio verso la fronte e osservate cosa fate con la schiena e poi riallungate la gamba e ritornate con la testa e il movimento seguente, piegate la gamba e guardate con la testa sopra e dietro la spalla destra, quindi premete come avete appena fatto con le braccia e guardate sollevando la testa e allungando le braccia, muovendo tutto quel che viene a muovere, guardate al di sopra. Quindi una volta guardate al davanti o sotto, come ve lo descrivete, la spalla e il braccio destro e una volta al di dietro o sopra, come e continuate due movimenti. In un movimento siete in torsione e flessione, in un movimento siete in torsione ed estensione. E osservate come tenete la bocca e come respirate. Ok, vi mettete a pancia in su. Supini, riposate e osservate come appoggia il lato destro ed il lato sinistro. e poi ruotate la testa molto lentamente a destra e a sinistra. E se volete rilassare ancora di più il collo, se siete destri mettete la mano sinistra, se siete mancini e mano destra appoggiata col palmo sulla fronte e aderendo per bene, tipo ventosa, con la mano sulla fronte, con il palmo che avvolge proprio il cranio, avvolgendo e pensando proprio al cranio, senza far scivolare la mano sulla pelle, ma proprio avvolgendo il cranio e muovendo quindi la testa, lentamente con la mano ruotate la testa a destra e a sinistra, ma un movimento molto piccolo e lento, e rendendovi conto se è vero che è la mano che ruota la testa o se semplicemente avete la mano appoggiata sulla testa e la testa che gira. La testa sta passiva e la mano è come se fosse quella di un'altra persona che vi ruota la testa da una parte all'altra. Ok, lasciate andare e ritornate proni a pancia in giù e questa volta la testa è girata a sinistra, quindi appoggiate la guancia destra a terra, mettete le mani come per fare piegamenti sulle braccia, gomiti piegati, braccia piegate e cominciate a piegare la gamba sinistra strisciando il bordo interno del piede sinistro sul pavimento e piegando la gamba. E ricordandovi, come abbiamo detto dall'altra parte, di muovere il ginocchio in su verso il torace, la pancia, quindi di muovere bene indietro il bacino più che muovere il ginocchio in fuori. Quindi in modo da far lavorare di più la colonna vertebrale del bacino più che muovere il ginocchio in fuori, in apertura, e tenere il bacino quasi fermo, orizzontale a terra. E continuate piano piano piano, respirando, osservando come passa il movimento, magari in ogni singola vertebra. Cominciate lentamente, mentre piegate la gamba a sinistra, a muovere la testa in modo da andare con la testa e la faccia verso il buco formato dal braccio sinistro che è appoggiato, piegato e con la mano appoggiata a terra, e andando con la testa verso il buco formato dal braccio sinistro, indirizzate la fronte verso il ginocchio sinistro e il ginocchio sinistro verso la fronte. Quindi i due estremi si avvicinano e osservate cosa fate con la colonna vertebrale, il bacino, il torace. Osservate se di fatto colonna vertebrale, bacino, torace si muovono bene o se non fate altro che fare sforzo tirando con ginocchio e testa. Il movimento della testa e del ginocchio sono il pretesto per liberare e fare muovere tutta la colonna vertebrale. E adesso, rimanendo in questa posizione, quindi testa verso sinistra, guancia destra a terra, mani appoggiate a terra, braccia piegate coi gomiti sollevati, cominciate varie volte, movimento piccolo e lento, a piegare la gamba destra, ruotando il piede destro in dentro, in modo che il bordo destro del piede tocchi a terra. Quindi è la gamba opposta a quella che avete appena piegato. Gamba destra. Quindi movimento piccolo, perché la testa è a sinistra e la gamba si piega verso destra. Molto molto lento e molto molto piccolo. Osservate se continuate a respirare. Ok, continuate piegando una volta la gamba sinistra e guardando con la testa sotto il braccio sinistro, avvicinando testa e ginocchio, e una volta piegando la gamba destra. Molto lentamente. E poi vi fermate supini, pancia in su, vi riposate un po'. Osservate l'appoggio a terra. Se avete bisogno, come prima, ruotate la testa, magari con la mano, se non avete bisogno di niente. E poi di nuovo rotolate a pancia in giù, proni. Con la testa girata a sinistra, la guancia destra a terra, le mani appoggiate, i gomiti sollevati, le braccia piegate, e quando piegate la gamba a sinistra, lasciando che il bordo interno del piede strisci sul pavimento, sollevate la testa per guardare al di sopra e dietro la spalla sinistra. Quindi piegate la gamba a sinistra, sollevate la testa da terra e guardate dietro e al di sopra della spalla sinistra, e come dicevamo prima, come bambini piccoli potete premere sulle mani e stendere le braccia. Quindi non si solleva più solo la testa, ma alla fine si sollevano anche le spalle e il busto, e rimanete come appoggiati sulla pancia, sull'addome. Molto molto lentamente. Ok, adesso continuate, e una volta piegate la gamba sinistra e guardate sotto il braccio sinistro, avvicinando la testa al ginocchio, il ginocchio e la testa. Poi riallungate la gamba e la testa, torna al suo posto, e ripiegate la gamba sinistra, sollevate la testa e guardate al di sopra e dietro la spalla sinistra. riposate un po' a pancia in su. Ok, ritornate, proni, pancia in giù, testa girata verso destra, ed ora piegate la gamba destra e con la testa guardate sotto il buco del braccio destro, avvicinando la fronte al ginocchio e il ginocchio alla testa, riallungate la gamba, tornate a posto con la testa, la girate a sinistra, piegate la gamba a sinistra, e guardate sotto il buco del braccio sinistro e continuate guardando una volta a destra sotto il braccio destro mentre piegate la gamba e una volta a sinistra sotto il braccio sinistro mentre piegate la gamba. Lentamente, respirando. Bene, adesso rimanete proni, pancia in giù, e fate la stessa cosa, però guardando una volta al di sopra della spalla destra mentre piegate la gamba destra e poi tornate, allungate la gamba, ritornate con la testa e guardate al di sopra della spalla sinistra quando piegate la gamba sinistra. E riposate un po'. Che stanchezza. Fa lavorare. Bene, ora facciamo il gran finale in due modi. Chi non è supino, chi non è prono, torni in posizione prona. E cominciate come avete appena fatto, girando la testa destra, a guardare sotto il braccio destro mentre piegate la gamba destra, poi ritornare proni e guardare sotto il braccio sinistro mentre piegate la gamba sinistra, come abbiamo fatto prima, ma fatelo spostandovi sul pavimento, camminando avanti e indietro. Allora, la stessa cosa che avete appena fatto, ma fatelo camminando, andando avanti e andando indietro. Provate. Come i militari, percorso di guerra. E poi continuate a fare la stessa cosa piegando mano e gamba contraria. Avanti e indietro. Pieghi la gamba destra e guardi a sinistra andando avanti spingendo con le mani. Pieghi la gamba sinistra, no, adesso al contrario. Pieghi la gamba sinistra e guardi a destra, spingendo con le mani. Ok, però spingi con le mani in modo da andare in avanti. devi strisciare per terra. Immagina di essere in guerra, eccolo lì, perfetto. O essere come i coccodrilli e salamandre, non so bene. Sia scivolando avanti, sia scivolando indietro. Adesso è giusta. È fatto apposta. Wow, piano. Bene, vi fermate e prima di riosservare gli appoggi facciamo il primo movimento per vedere come va adesso. Quindi appoggiate la fronte a terra, mettete gomiti sollevati, mani appoggiate per terra e fronte, fronte appoggiata a terra e seguite la formichina che ancora una volta cammina sul pavimento davanti a voi, la seguite con gli occhi e poi con tutto quanto il corpo, la seguite finché sale nella parete davanti a voi e vedete fin dove riuscite a guardare. Se è cambiato qualcosa, in meglio in peggio uguale. Guardate una o due volte, dopodiché vi mettete a pancia in su, supini, e osserviamo gli appoggi, vedendo se ci sono delle differenze. Quindi mettete pancia in su, e osservate come sono messi i piedi, i talloni. Come appoggiano i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino a destra e a sinistra. E poi partite dal coccige fino alla testa e osservate come appoggia adesso la colonna vertebrale, in che parte è sollevata, in che parte appoggia. Partite dal coccige, osservate l'osso sacro, l'arco lombare, la zona toracica, il collo, la testa. Come tenete la bocca e infine come appoggiano oltre le scapole le spalle e le braccia. Se c'è cambiamento nel modo nel quale tenete le spalle. E poi lentamente rotolate di fianco, vi sedete e piano piano vi alzate in piedi. E quando siete in piedi, prima di andarvi a cambiare, osservate come state in piedi e come camminate. Magari i primi passi fateli all'indietro, così non cadete subito nel vostro schema abituale del cammino. E poi andate avanti.